ad alta voce, edizione 20 anni. Valentina Carnelutti legge Il ritratto di Sarah Malcolm di Ginevra Bompiani. Seconda puntata. È uno dei più vecchi quartieri di Londra, fra l'Old Bailey e il Tamigi, di fronte al tribunale. Chiuso da mura e archi, all'epoca di Sara, vi si accedeva attraverso porte e cancelli che la notte venivano chiusi. Fu creato per accogliere i templari, ma con la dissoluzione dell'ordine nel 1314 venne assegnato ai frati ospedalieri, che col tempo cedettero alcune stanze in affitto agli apprendisti avvocati. A poco, i nuovi inquilini occuparono il quartiere, creando all'interno delle sue mura due delle quattro Inns of Court, residenze per avvocati e studenti in legge, da cui prendono nome le quattro grandi associazioni legali di Londra. Così, il quartiere del Temple, creato per ospitare una comunità, ne ospita invece un'altra. Arioso come un giardino e chiuso come un giardino, è antico, riservato, arcano. Due volte l'incendio lo trasforma, e il secondo, l'incendio del 1678, lo distrugge ancor più del grande incendio del 1666. Nella sua cinta convivono tante storie diverse. La storia dei Cavalieri Templari, la storia di Geoffrey di Mandeville, lo scomunicato, la memoria della prima rappresentazione della 12ª notte di Shakespeare nella Temple Hall, la memoria del fuoco, la memoria del Dr. Johnson, dei fratelli Fielding, di Cowper, di Thackeray, di Burke, di Sir Walter Raleigh, di Dickens e tante altre. Fra tutte si annida la più sanguigna, la più scandalosa, la memoria di un buio delitto. Il quartiere del Temple è diviso in due, il Middle e l'Inner Temple. Il Middle Temple è solenne e sontuoso, contiene la hall, la chiesa e tutti gli edifici più eleganti. L'Inner Temple è più intimo, più povero. Costruito all'interno delle mura, vi abitavano gli studenti di legge, i piccoli avvocati, gli avventizi. Anche fra le due biblioteche vi è differenza. Tuttora, per entrare nella biblioteca dell'Inner Temple, basta arrampicarsi su per le scale. Per accedere all'altra bisogna presentare domanda. Nella grande chiesa del Temple sono distese 9 figure che non portano l'abito templare. Sono cavalieri a cui i templari hanno dato ospitalità di sepoltura. Alcuni di loro hanno le gambe incrociate e questo sembra indicare, se non un pellegrinaggio in Palestina, almeno la promessa di compierlo. Fra questi, uno desta ancora sorpresa. Riconosciuto per molto tempo come Geoffrey of Magneville o Mandeville, è uno scomunicato, un sanguinario, e la sua presenza non si intona con la regola templare. Conte di Essex, conestabile della Torre, fondatore dell'abbazia di Walden, si era ribellato contro il re Stefano. Scomunicato per il sacco dell'abbazia di Ramsay, viene colpito da una freccia nel 1144 mentre cinge di assedio il castello di Browell. Secondo la cronaca, alcuni cavalieri templari lo vengono a prendere, assistono alla sua morte, lo coprono col mantello templare e lo portano al vecchio tempio. Ma perché uno scomunicato non toccasse terra consacrata, appendono per 20 anni la sua bara a un albero, finché nel 1182, ottenuto il perdono papale, lo seppelliscono nella chiesa del nuovo tempio. In fondo alla navata centrale, un gruppo di statue porta le fattezze di William Marischal, conte di Pembroke, e dei suoi figli, William e Gilbert. Questo Gilbert, giovanissimo, dal bel viso infantile, ha il corpo contorto, come se il suo desiderio di partire per le crociate lo avesse traversato tutto inutilmente. Una gamba è accavallata sull'altra e il braccio sembra slogato nel polso che regge la spada. Gilbert, destinato alla chiesa, non sapeva cavalcare, sebbene partecipasse insieme ai fratelli a qualche combattimento. E un fiero cavallo, in un torneo tenuto a Hertford nel 1241, prese la fuga e lo uccise. Nella Temple Hall, che traversa il Middle Temple come una spina dorsale, si davano feste e rappresentazioni teatrali. Il 2 febbraio 1602 Shakespeare vi rappresentò la sua dodicesima notte, scritta in fretta e furia per compiacere Elisabetta e celebrare la visita del giovane duca Orsino con cui l'anziana regina civettava, mentre l'ambasciatore dello zar, Boris Godunov, scalpitava non invitato dietro le quinte. Ma l'ultima grande festa di cui si ha notizia dettagliata si svolse la notte fra il 2 e il 3 febbraio 1734, un anno meno un giorno dopo la notte in cui accaddero i fatti che riguardano Sara. La festa fu data nell'Inner Temple Hall in onore di Mr. Talbot per la sua nomina a Lord Cancelliere e vi assistette in incognito anche il principe di Galles. Si racconta di una curiosa cerimonia che si svolse dopo il ricco banchetto e la rappresentazione della commedia Love for Love seguita dalla farsa The Devil to Pay prima del grande ballo. In questo intervallo il Lord Cancelliere, il maestro del Tempio, i giudici e i magistrati si ritirarono nella sala delle riunioni per tornare nella hall mezz'ora dopo e formare un largo cerchio intorno al camino che non conteneva né fuoco né ceneri. Allora il maestro delle feste prese il Lord Cancelliere per la mano destra e questi prese con la sinistra Mr. J. Page. Dopodiché tutti, giudici, procuratori e magistrati, danzarono, o meglio girarono tre volte intorno al focolare, seguendo l'antica cerimonia, aiutati in questa figura di danza da Mr. George Cook, il protonotaio, che aveva più di 60 anni. Per tutto il tempo della danza, un certo Toby Aston, in toga, suo padre aveva esercitato la difesa nella magistratura del re, cantava le antiche canzoni accompagnato dalla musica. Questa danza verrà ridicolizzata da poeti e scrittori come Pope e Prior. Così viveva la comunità del Temple, una comunità ristretta, cerimoniosa, protetta. Studenti e avvocati si riunivano ogni giorno nella hall per il pranzo comune, a cui erano chiamati dal suono del corno. Vivevano indisturbati gli uni accanto agli altri e la sera i cancelli si chiudevano e i guardiani vegliavano. Così tranquilla, rituale e sicura si svolgeva l'esistenza, da non temere nemmeno il ridicolo. Da fuori arrivavano le lavandaie, così chiamavano nelle Inns of Court le domestiche a ore, a occuparsi delle stanze degli scapoli, a svolgere le faccende per poi tornare alle loro case lontane. Come i frati ospedalieri si erano aperti agli avvocati, così da qualche tempo era invalsa l'abitudine di affittare stanze a persone che non avevano a che fare con la legge, ma per lo più la popolazione del Temple rimase e rimane tuttora legata alla vita del tribunale. Per questo il delitto del Temple fece tanto scalpore. È come se un leone fosse entrato in chiesa o un orco in convento. Il popolo di Londra trasecolò, il popolo del Temple rabbrividì fino al nudo delle ossa. È vero che in quel periodo Londra e il Temple non erano proprio tranquilli. L'11 aprile di quello stesso anno a Temple Bar il popolo bruciò una grande figura di paglia che rappresentava un uomo vestito di carta azzurra con una croce sulle spalle e una stella bianca sul mantello. La folla era così inferocita che spaccò le finestre di molte case. La ragione dell'eccitazione era il ritiro della legge sul tabacco. Ma la questione veramente cruciale era la legge sull'imposta indiretta su vino e tabacco. Detta Excise Bill, la legge fu approvata con pochissimi voti di scarto il 14 marzo 1733 e poi ritirata il 9 aprile dello stesso anno, che il primo ministro, Sir Robert Walpole, cercava di imporre e a cui Sarah Malcolm venne paragonata. Si diceva che se Jonathan Wild, primo ministro dei ladroni di Londra, poteva paragonarsi a Sir Robert Walpole, Sarah Malcolm era il suo Excise Bill. Tamfield Court, uno dei teatri di questa vicenda, si trova nell'Inner Temple. Era chiamata così perché vi aveva abitato Sir Lawrence Tamfield, che fu giudice al celebre processo della contessa di Somerset per l'omicidio di Sir Thomas Overbury. Confinava con la casa del maestro del Tempio e con un edificio demolito nel 1881 nel quale viveva Mrs. Duncombe. Attualmente al suo posto si trova il lato nord della biblioteca. Dopo la ricostruzione, Tamfield Court divenne Kiffin Taylor Building, dal nome di Sir Francis Taylor. A Tanfield Court abitava uno studente di legge, John Carroll, o Carroll, o Carroll, come viene storpiato il suo nome per tutto il processo, che per tenere pulite le sue stanze assunse Sarah Malcolm negli ultimi mesi della sua breve vita. Complotto. Se veramente tutto questo l'hai fatto con piena coscienza e non da stordito, se veramente avevi uno scopo determinato e preciso, come mai non hai neppure gettato uno sguardo nel borsellino e ignori ancora che cosa ti è toccato? Per che cosa ti sei sottoposto a tante torture e sei andato consapevolmente a commettere un'azione così vile, ignobile e bassa? Fyodor Dostoevsky, Delitto e Castigo. Arrivata a Londra, sola e senza l'aiuto della famiglia, Sara si aggira nei dintorni del Temple in cerca di un lavoro. Ha due possibilità: il servizio pubblico e il servizio domestico. Prova l'uno e l'altro, non si sa in che ordine. Quando Carol cercherà una lavandaia che si occupi delle sue stanze, Sara gli verrà raccomandata da alcuni gentiluomini del Temple per i quali forse ha lavorato. Ma tra un servizio e l'altro, o subito appena arrivata, trova lavoro al Black Horse in Boswell Court, vicino a Temple Bar. Il Black Horse, gestito e frequentato da irlandesi, è da sempre un ritrovo di ladri e truffatori. Cresciuta accanto al pub dei genitori, non è strano che Sara cerchi lavoro in un locale. È curioso invece che in tutta Londra la ragazza giri come una farfalla intorno ai luoghi della legge e del delitto. Qui Sara viene a contatto con la malavita londinese, qui si fa per la prima volta degli amici. Fra questi c'è Mary Tracy, una giovane donna sposata, di temperamento leggero, come dicono le cronache. Le minute dell'interrogatorio la rintracceranno nei pressi di Burlington Street o Hanover Square, dove risiederebbe insieme al marito, e forniscono una serie di confusi indirizzi dove si suppone che la si possa trovare. Uno di questi è una ale house, una birreria, vicino a Drury Lane. Non è chiaro se lei o il marito vi lavorassero o se la frequentassero semplicemente, ma considerando la lunghezza della giornata lavorativa e il poco tempo libero a disposizione, è più probabile che quando Sara serviva al Black Horse, anche Mary vi lavorasse. Mary Tracy è la chiave di volta. Qualcuno sostiene che Sara la conoscesse già e che al pub abbia rinnovato la conoscenza. Può darsi che sia stata Mary a farla assumere. Comunque, è dalle loro chiacchiere davanti a una tazza di tè che nascerà qualche mese o qualche anno dopo il complotto. Sara ha lasciato il lavoro nel pub, si è presa una camera in un quartiere lontano e presta servizio nel Temple. Qui tutti ormai la conoscono perché ha cambiato diversi padroni e lei conosce tutti. Il quartiere è un po' la sua casa, più di quella stanza lontana che spesso la sera non sa come raggiungere. L'idea di Mary, forse non solo sua, è di sfruttare le conoscenze che Sara si è fatta al Temple per compiere una rapina. Sara obietta che esponendosi in prima persona si farebbe subito riconoscere. Mary ci ha pensato. Non ti preoccupare, dice. Ci sono gli Alexander. Ci aiuteranno loro. Gli Alexander, Thomas e James, sono due bei ragazzi irlandesi. Due facce d'angelo, una madre infermiera, un lavoro decente, suscitano fiducia e compassione al solo guardarli. Dicono che uno di loro piacesse a Sara e forse Mary ci viettava con l'altro. Malgrado le apparenze, appartengono all'ambiente. È con questi piccoli personaggi della malavita che Sara complotta di rapinare una vecchia invalida che ha servito due mesi addietro, rivelandosi così una specie di Raskolnikov al femminile, superba e presuntuosa come l'eroe di Delitto e Castigo, inetta e trasognata come lui, forse anche epilettica. Il suo linguaggio istruito, la sua puntigliosa ricostruzione dei fatti, le sue crisi di disperazione, le sue convulsioni, la sua vanità, il suo desiderio di comandare, la sua incapacità di nascondersi, il suo andirivieni insistente sui luoghi del delitto, la sua tenace e inefficace difesa, le sue cocciute bugie, le sue rivendicazioni, il suo orgoglio, la sua passione, tutto questo ne fa un Raskolnikov prematuro. Nessuno ha scritto la sua storia, ma qualcuno ha fatto il suo ritratto. Illustrazioni vere o immaginarie della sua vita circolano, si diffondono, si moltiplicano. La sua storia resta invece ancorata all'untuosa ricostruzione del curato Guthrie, il cappellano della prigione che assisteva fino alla loro lucrosa fine i condannati a morte. Perché non è diventata un'eroina? Perché non è stata romanzata? Forse era troppo complicata per il suo secolo. Le manca la sbrigativa scioltezza di Moll Flanders, l'astuta truffalderia di Jonathan Wilde, lo spavaldo coraggio di Jack Shepherd. Non è un'eroina del Settecento. Ha mancato il suo secolo, l'Ottocento, perché, come dice Horace Walpole nei suoi diari del 1748, pochi anni dopo nessuno si ricorda più di lei. Non ha la feroce statura di Jack lo Squartatore e non ha la grazia del libertino. È viziosa e sa di esserlo, si vanta e si pente, le piace parlare, le piace dirigere, le piace fare di testa sua, vuole sollevarsi dalla sua condizione, è imprudente, retorica, generosa. Tutti questi aggettivi allineati come strisce di colore non ce l'avvicinano di un passo. Non è diventata Raskolnikov, è troppo tardi. Non c'è più nessuno per trasformarla. Valentina Carnelutti ha letto Il ritratto di Sara Malcolm di Ginevra Bompiani, a cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce edizione 20 anni è un programma Rai Radio 3.